Indidi ue, un dai più fuars e vivaros sustignidors de culture furlane, alè l'elo chianton di Udin. Per Beppo Marchet alla scritta di lui, il requieto e insoddisfatto ricercatore di un tono nuovo, autentico e valido della scrittura friulana. Sentì un dai suoi tanti lavori. Il Christ di Len. Di Len, te mont casù. Te sgnoz di stat colinchiator listelis, e la matine blancis e bielis listiolin su. Di Len, te mont casù. Signor, te cros ti chiali, e tu se sbrot mal fat, ma io ti prei, senza di te di band si va in denant. Tu sei di Len, signor, ma sulla mont talaiar cal svintule cal bruntule o tenef che ogni robe sapulis o tal clap dur e frete slis, tu domme tu tuas vos, signor, te cros di Len, tu domme tu. Besol, casu. Novella Cantarutti, nativa di Spilimberti, e ha il lengaz di Navarons, di là che gli ha vivut di frute. Pre Beppo Marchetta scriv che la Cantarutti, in tutte le sue poesie, ha trovato il tono o uno dei possibili toni giusti della moderna friulanità, e nelle prose l'accostamento del suo nome a quello di Caterina Percotto. Ascoltai tu ne so poesie. Marchiat vieri, odor par marchiat vieri di novembar, calmi aleati il chiaf piastrendo un braccio, o ali ingolociadi dal gnoiessi, la saeti il quarti cori biellusini, coma sa fos la vierta sul misdì, ca si passa canais par marchiat vieri, cui libri strenta i braz e li stagions. Nativ di Sarzè da Pidecleve, Dino Virgili, poete, romanzir e critic letterari, calpolà a par con qualunque brav scrittor narrativ talian, us presente un so componiment di vere poesie. Friul Palmont. A San Bortolomio, culis isilis, o butarin sul chiar in estris frus e un sac di strafanis e un cris di len. Il Friul noie tiare plui par no, nestris paris a San li stradis vieris. O portarin cum no dentri dall'anime il mior Friul, dome nestri, palmont. Sunt un aghe rimite scugnusude, o chiantarin une danze di amor a tor di un fu caviart sulla beorchie, chialan si dreste muse antiche e rampide, o sarin pardabon il ver Friul. O plantarin un Friul nuv, lontan, e sarà ben une tiare in prometude. E crescerà in allore une citat, e i pais d'ulintor qui chiampanigli, e i nis di Sisile sod la linde, e i frus cazzuin, sigant in tal curtil, o podarin ventum anche no doi. Un Friul dome nestri, antiche rampit, cultei e il poz, te place dal pais. Ma in che di me, signor, fammi morì a chi sul pad di chiase, a tradiment, e sapulimi da pi dal mio morar tal curtil, con tu ne cros di stex. C'è mut chiantà, lontan di te, Pais. L'isprosis e l'ispoesis di Renza Snaidero di Mayan e son moments di vite e di tim, figuris, vos e aspiet dal soplan, che apat tall'ordiesi nativ e che i dismuovi in suggestions, emozions, stat e grad dall'anime. Sagris, svoletà di colors lusin, viar dal cilscuni di canicule. E l'ams di ridadis di là dal mur, in tun son sura ual di musiche di campani stai curti. O antic savor, di anguri e di crocan, e io, col vistidù discreti. Otmar Muzzolini, col sorenon di famè Meni Uccell, al vendi biliris. Il suo sunet e la sua canzone libere, lavorata alla classiche, si da walzi in contune maniere une graziute dute mil, e a sclopin da pi in une smalità de galiote. E più dolce iere in prin che maniere che graziute, lui mostre più forte e iela sgavarà de tal'ultimo. Poesie di ridi la so, anzi, une satare garbe e ben uciade. No. I dis, ie sì, no, signor, mi dis di no. Mangino un poliziot, mi dis di no. Ciolino un panetton, mi dis di no. Oppure dis, c'è di tu, sorresere, com'ho che rit la biele primavera e solesin a fangirla, che tu sas? Mi chiala il suo discorso che tu mi fas, o invece sulla sente tal sorrir, ragionamenti vieli, oppure fai ne visite a mio pari, ne visite a me mari. E se c'ho le snegolarine rosse, negolarine nere, e se picchias culà ne stampe nuove, culà ne stampe viere. E se crompas un vas di canolus, parnuie, di sclopons, e se sul pat che il chiuso l'insuage, e chi ti al dir se le sinteferage, e che l'armar, che schiacci sta al seglar, che il canapè, che bange, che il comò, mi rid come ad un mat e dis di no. Così, par mil condigi, sempre no. D'estate in primavera, sempre no. Par tantis coin proponi, coin prospeti, par tantis coin dideti, sempre no. Di peso par canieris, sempre no. Di botto ragionadis, sempre no. Se ino presenza in cento, nome iola superaule, no. La sua risposta, no. La sua sentenza, no. No di mattine e sempre. No di sere. No via pegnot, no saldo. Mai un se. Podevi ed intunatri e incinchidì. Questo, cari amici lontani, il messaggio poetico degli scrittori di risultive, che sono veramente una certezza per l'avvenire de nestre mari lenghe. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, 69esima trasmissione dedicata agli emigrati, a cura di Ermete Pellizzari. Hanno collaborato Ottavio Valerio, Andreina Nicoloso Ciceri, Alan Brusini, Aurelio Cantoni, Otmar Mozzolini, Dino Virgilio.